Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. I chase the dream of a living space, which is variable and open. I want to wear, I want to share phenomena by opening the windows. Because here come, in their turn, the sun and moon and the other stars. Buongiorno. Si sente tante volte dire che la bellezza è il maggior patrimonio dell'Italia. E quando lo si sente dire, si pensa subito a turismo, alberghi, musei, cuochi, cucine. Tutte cose, insomma, che sono mediaticamente redditizie, che possono produrre denaro, ma che sono legate ai luoghi comuni. Però una cosa che spesse volte o non si sa o si dimentica è che la bellezza italiana, il saper vivere italiano, il gusto del bello emerge nei suoi prodotti, che sono anche in settori diversi da quelli tipici. Per esempio emerge nella meccanica. Se ai prodotti italiani, anche quelli di un settore molto maturo come l'automazione di cancelli, porte, garage, si aggiunge un quid di bellezza, allora non solo si riesce a tenere in piedi un settore maturo come questo, ma anche a competere e a guadagnare molto. Questa asserzione è dimostrata dalla storia di Nice, un'azienda di Oderzo in provincia di Treviso che si occupa appunto di automazione di cancelli, porte, garage, e è riuscita a crescere rapidamente e a fare utili veramente significativi grazie alla felice intuizione di metterci dentro un quid di estetica. È un'azienda nata negli anni 90, poi il dottor Lauro Buoro, col quale ci colleghiamo fra pochissimo, ce lo spiegherà meglio, e che negli ultimi anni è letteralmente esplosa fino ad arrivare a 264 milioni di euro di fatturato, con un EBITDA che alle volte è quasi un quinto del fatturato e un risultato netto del 6%, numeri stratosferici per un settore maturo come questo qua. Buongiorno dottor Buoro. Buongiorno dottor Astone. Allora, la bellezza è bella perché è bello ciò che è bello, ma la bellezza fa anche fare gli schei. Detto come l'ha appena detto lei, assolutamente sì, però a questo c'è sicuramente tanto lavoro di tante persone, di tanti collaboratori, e al di là dell'intuizione che sembra quasi banale oggi di avere utilizzato il design come elemento di differenziazione, poi c'è invece un'organizzazione, una capacità di internazionalizzazione estremamente forte che ci ha portato ai risultati che lei ha annunciato prima. Ma come avete fatto, essendo nati praticamente 20 anni fa, 25 anni fa, a raggiungere una cifra così rilevante di fatturato nel giro in fondo di poco? Guardi, è nato tutto vedendo esattamente e confrontando, facendo quello che oggi gli economisti dicono un'analisi dettagliata del mercato e andando a selezionare in modo molto forte quelle che erano le market share all'epoca dei nostri competitor, e all'epoca noi eravamo nessuno, i nostri competitor erano già molto importanti. E abbiamo individuato immediatamente tre elementi di forza che non avevano: design e ergonomia, internazionalizzazione e forte vocazione invece sulla parte tecnologica. Tutti questi tre elementi messi insieme sono gli elementi che fanno di Nice un'azienda dinamica, veloce e soprattutto internazionale, perché oltre l'85% del nostro business è fatto fuori dall'Italia, quindi siamo per definizione internazionali. Ecco, ci interrompiamo un attimo per la pubblicità e gli avvisi sul traffico. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Il brano di musica che state ascoltando si intitola Our World is Magic, Our World is Nice, è stato scritto da Stefania Paterniani a proposito di Nice e devo confessare che mi piace moltissimo. Quando io mi sono recato a visitare la loro sede, che non ha niente di quello che uno si può aspettare da un produttore in fondo di motori per cancelli e di sistemi per aprire le porte in modo automatico, mi sono trovato immerso in un ambiente di bellezza, per cui anche una musica come questa ci sta bene. Dottor Buoro, ma voi avete anche delle collaborazioni con degli architetti, dei designer, le avete avute nel passato, ce le può raccontare? Certo, allora sicuramente il DNA di Nice, proprio dalla sua nascita, come dicevo prima, era un elemento importante il design, quindi abbiamo individuato subito un collaboratore che poi è il nostro design ancora attuale, che è Roberto Gerlenda, che è la persona che mi ha avvicinato a questo mondo e mi ha dato la possibilità di crescere anche dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista proprio dell'esperienza personale. E oltre a questo, che questo è stato l'elemento forte, lo è ancora, poi abbiamo un elemento veramente diverso rispetto all'automazione per cancelli, che è il nostro classico business, che è Fontana Arte. Che e sono delle lampade. Esattamente. Ma anche con designer famosi avete avuto delle collaborazioni su certi prodotti, collaborazioni esterne? Allora, come Nice no, perché come Nice abbiamo sempre optato la collaborazione con il nostro designer che è Roberto Gerlenda. Lui sì. Ha disegnato tutte le nostre collezioni e ha disegnato tutta la parte grafica e strategica del brand. Quindi che in effetti è molto divertente. Le devo confessare che io quando dovevo comprare il motorino per automatizzare la porta del mio garage, che poi ho comprato, ma era un acquisto talmente noioso stare lì a occuparmi di sti motori che l'ho rimandato sine die. E questo è abbastanza normale per tutti gli utenti. Poi ci si sbatte contro Nice e spesse volte qualcuno ci chiede esattamente cosa facciamo, perché dico no, non può essere troppo bello. Troppo bello per poi dei motori dei cancelli. Esatto, alla fine. Esatto. Senta, invece diceva che avete Fontana Arte che fa le lampade e lì ci sono collaborazioni di designer esterni anche di nome, giusto? Assolutamente sì, partendo da Gio Ponti che è stato nostro art director, tanto per andare lontano nella storia, ma oggi ne abbiamo tanti altri e tutti architetti importanti, ne dico alcuni, Shigeru Ban, piuttosto adesso stiamo collaborando con la Paola Navone e poi ci sono tutti i giovani che stanno lavorando con noi, quindi per noi è sicuramente un momento, una palestra di continua... Ma perché avete comprato Fontana Arte? Cosa c'entra con i motori per i cancelli e le porte? Allora, Fontana Arte nasce da due progetti che sono legati assieme. Il primo è l'italianità di un'azienda così importante, con un brand così importante, che aveva un problema importante dal punto di vista strategico e dal punto di vista finanziario. Il secondo punto era noi con i nostri sistemi di automazione non facciamo solo porte da garage, motori per porte da garage, per cancelli eccetera, ma facciamo anche motori per tende, tapparelle e screen. Certo. Questo mondo è legato perché noi chiudiamo la luce verso l'interno e l'accendiamo con le lampade, quindi la nostra intenzione è integrare la tecnologia elettronica, quindi la tecnologia che comanda i nostri prodotti, i nostri sensori con le luci. Questo è quello che stiamo facendo. Ma ci può raccontare qualcuno dei suoi prodotti che hanno una componente estetica che si nota ed è particolarmente evidente o vi ha particolarmente premiato? Allora, sicuramente il prodotto che ci ha fatto conoscere al mercato è Nice Way, che è stato poi anche premiato da Ladi, e è un radiocomando, un telecomando. Quello con gli smile. Esattamente. Senta, ma oltre a Fontana Arte, voi avete fatto numerose acquisizioni. Certo. Certo. Ce le può raccontare poi vediamo, e poi ci dice se in futuro ne vuol fare delle altre? Certamente. Allora, noi... diciamo, nasciamo dopo il 2006 con l'operazione di quotazione in borsa. Esattamente. Di quotazioni in borsa del gruppo. Perché abbiamo fatto la quotazione? Abbiamo fatto la quotazione perché volevamo fare una crescita importante negli anni successivi, avevamo bisogno di poterci finanziare. Quanto avete raccolto in quotazione? Abbiamo raccolto circa 200 milioni. Accidenti. Sì. E poi ve li siete spesi tutti? Ne abbiamo spesi abbastanza, non tutti, abbastanza. Perché ho visto che l'azienda è ancora poco indebitata. No, non ne abbiamo debiti. Infatti c'è la posizione finanziaria netta che è positiva. Assolutamente, ma per pensiero imprenditoriale e strategico io ho sempre voluto un'azienda snella dal punto di vista del debito, cioè non averne e cercare di autofinanziarci per fare tutti i progetti. E questo è quello che mi ha fatto scegliere nel 2005, quando abbiamo iniziato il progetto, di dire incominciamo anche a finanziarci attraverso il mercato è un'opportunità, e ci facciamo finanziare vendendo delle quote della società, quotandoci. E quindi dal 2006, con l'incameramento dei soldi raccolti con la quotazione, avete fatto delle acquisizioni. E quali sono state? Allora, abbiamo le racconto le più significative. Sì. La prima è stata negli Stati Uniti, volevamo aprire il mercato degli Stati Uniti, nel 2008 l'abbiamo aperto facendo una piccola acquisizione, però significativa, perché abbiamo iniziato a mettere le basi non solo commerciali ma anche produttive per gli Stati Uniti. Questa per noi è molto significativa perché significa cambiare completamente l'identità di Nice, non solo europea ma anche americana. Poi significative sono due nel 2011, una è l'Aero, che era un nostro competitor all'epoca per i motori per tende tapparelle, dove in questo specifico area di business noi eravamo sicuramente importanti, ma non avevamo una market share così rilevante, soprattutto nell'area Dutch, quindi Germania, Austria, Svizzera. Mm-hmm. Abbiamo acquisito questo competitor, diventando così, con questa operazione straordinaria, il secondo player nel mondo per l'automazione di tende tapparelle. E poi, per ultima importante, il Brasile, che abbiamo sempre fatto nel 2011, anche là abbiamo acquisito una piccola azienda produttiva in Brasile per superare il problema che ci sono sui dazi di importazione, abbiamo riorganizzato la fabbrica e oggi in Brasile siamo leader di mercato a distanza di 4 anni con delle crescite importanti. Ultima, nel 2015 abbiamo acquisito all'inizio di quest'anno un'altra società in Sudafrica, a Cape Town, anche in questo caso per presidiare il mercato e essere presenti direttamente in quell'area del mondo. Ecco, fra poco ci racconterà le acquisizioni che pensate di fare in futuro, ma intanto ascoltate questa breve scheda su Nice. La storia di Nice dimostra come la componente estetica possa aggiungere importante valore economico anche a prodotti maturi e in precedenza indifferenziati, come i motori per cancelli e le tende avvolgibili. In pratica, il bello non solo piace, ma può far guadagnare molti soldi. Nice S.p.A. ha sede a Oderzo, in provincia di Treviso, e nel 2014 ha registrato ricavi per 270,9 milioni di euro, con un EBITDA del 15,3% e un risultato netto del 5,7%. Fondata e diretta da Lauro Buoro, Nice disegna, fa produrre e commercializza sistemi per l'automazione della casa, cioè cancelli motorizzati, porte e aperture per garage, sistemi di comando wireless, sistemi d'allarme e infissi motorizzati. Nice non produce direttamente nulla, ma delega tutta la parte manifatturiera a una rete di fornitori a meno di 150 km di distanza dalla sua sede. Una specie di meta azienda diffusa che fornisce Nice e diversi altri competitor e imprese operanti in settori affini. È un approccio molto diffuso in tante imprese di successo del Veneto. In meno di un quarto di secolo di vita, l'azienda è nata appena nel 1993, Nice ha potuto crescere rapidamente e generare tanta redditività grazie a una intuizione fondamentale che poi si è trasformata in una strategia. Applicare al settore elettromeccanico la ricerca nel design e nelle forme, cercando di trasmettere emozioni attraverso il prodotto e l'immagine aziendale. Prima di Nice, il settore era piuttosto anonimo e uniforme, dopo è cambiato radicalmente. In pratica, realizzare cancelli automatici e motori per garage che siano anche molto belli consente semplicemente di venderli a un prezzo più alto, finanziando un'espansione aziendale significativa. È la dimostrazione pratica di come l'estetica, tipicamente made in Italy, possa tradursi in crescita economica, per lo più in un settore molto maturo e che un tempo aveva margini risicatissimi. Nel 2006 Nice si è quotata in borsa al segmento Star, raccogliendo risorse fondamentali per la crescita futura. Nel 2010 Nice ha comprato la maggioranza del capitale di Fontana Arte, azienda fondata dal mitico Gio Conti nel 1932. Gli esperti ritengono che Fontana Arte abbia scritto la storia dell'illuminazione in Italia e all'estero, grazie alla direzione artistica di architetti come Gae Aulenti e a collaboratori come Piero Castiglioni e Renzo Piano. Rieccoci in linea dopo la scheda. Stavamo parlando col fondatore di Nice, Lauro Buoro, di eventuali acquisizioni future, anche perché in cassa c'è ancora della disponibilità da spendere, no dottore? Certo, allora noi siamo sicuramente intenzionati a crescere anche per operazioni esterne, quindi acquisizioni. Stiamo vedendo una serie di operazioni esterne, ovviamente noi siamo quotati, quindi siamo price sensitive, non posso dirle di più, ma sicuramente le linee di direzione di crescita sono linee esterne con delle acquisizioni nei nostri settori storici, quindi il gate, l'automazione per cancelli. Acquisizione all'estero o in Italia? Sicuramente all'estero, ma oltre a questo la cosa importante, volevo sottolineare che la crescita viene anche per crescite interne, quindi noi stiamo continuando a crescere anche quest'anno, non solo attraverso le operazioni che abbiamo fatto a febbraio di questo operatore in Sudafrica, ma anche stiamo crescendo. Ecco, per linee interne però voi non avete la produzione al vostro interno, voi disegnate, fate gli stampi, commissionate gli stampi, ma come molte aziende che ci sono in questo settore, in altri settori affini in Veneto, poi delegate il tutto a una rete di fornitori, che sono anche fornitori di altri, in modo da avere la massima flessibilità. Certo, il nostro modello è completamente in outsourcing per ciò che riguarda, vorrei precisare, per ciò che riguarda Nice in Italia e tutto il perimetro italiano, quindi anche in Europa. I nostri fornitori sono tutti fornitori locali, sono localizzati a circa massimo 100 km da noi, non abbiamo mai delocalizzato nella nostra vita imprenditoriale e storia dell'azienda, perché abbiamo mantenuto una forte vicinanza con il territorio e soprattutto per garantirci poi quella flessibilità che ci ha consentito poi di crescere nel tempo. Siete paradossalmente una fabbrica senza le fabbriche. Esattamente, anche se però le fabbriche in realtà ci sono, perché se uno va dalle vostre parti sembra di stare quasi in tutta una grande azienda estesa, più che in un distretto sembra un'unica azienda, li si vedono anche i fornitori, basta fare un giro da quelle parti e molte cose si capiscono. Assolutamente sì, assolutamente. Senta, sì. Il tempo è tiranno, la devo salutare, ma penso che tornerò ancora a invitarla, intanto la ringrazio. Grazie a voi e grazie mille del tempo. Saluto gli ascoltatori, arrivederci alla prossima puntata, sabato prossimo alle 14:00.